sempre accanto con gli odi rosa. Sorrisi e fiori, ne penserete ai nostri vecchi amori. Ma se prenate giorno, vieni.